Siamo con Mauro Pescio, autore, co-autore del libro Io ero il milanese, edito da Mondadori. Buonasera Mauro. Ciao a tutti, buonasera, buonasera. Allora Mauro, il tuo libro è un libro molto particolare che racconta una storia del co-autore che con te firma questo libro, Lorenzo S., Lorenzo che si firma con poi una iniziale a cui appartiene probabilmente molto, non tutto, della storia che sta dietro a questo libro. Ce ne vuoi parlare? Perché hai scelto proprio la storia di Lorenzo, di raccontare con lui questa storia? Allora, intanto il libro è una delle declinazioni di questo progetto sul milanese che effettivamente negli ultimi 2 anni è diventato grande parte della mia vita, nel senso che nasce questo progetto come un podcast prodotto da RaiPlay Sound, poi è diventato un libro edito da Mondadori e poi anche uno spettacolo che sto portando in giro. Nasce un po' per errore, nasce questo incontro, perché io nel frattempo lavoravo come autore radiofonico per un programma su Radio Rai. Ho incontrato la redazione di Ristretti Orizzonti, che è una rivista trimestrale che si fa all'interno del carcere di Padova, nel carcere Due Palazzi, da moltissimi anni, e presuntuosamente ero convinto di andare in redazione a trovare delle storie molto avvincenti da raccontare. Cioè, non presuntuosamente, nel senso che ci sono delle storie molto avvincenti all'interno di una redazione fatta da detenuti dentro un carcere, ma giustamente Ornella Favero, che è la direttrice di questa rivista, mi disse allora: guarda, forse quello che stai cercando non è esattamente quello che noi possiamo offrirti. E aveva ragione, però, nonostante il fallimento di quel mio progetto, iniziai una collaborazione con questa redazione, una collaborazione con la redazione, con Ornella Favero in particolare, che mi portò qualche tempo dopo ad incontrare Lorenzo. Lo incontrai dopo 10 giorni che era uscito dal carcere. Aveva una condanna, cioè era in carcere da più circa 10 anni, ed era uscito in libertà definitiva. Aveva ottenuto una scarcerazione immediata, inaspettata e definitiva. E io ho incontrato una persona che era più o meno mio coetaneo, quindi un adulto, un uomo adulto, ma totalmente disadatto alla vita libera, perché era la prima volta che sperimentava la vita libera non da criminale. In tutte le sue precedenti scarcerazioni usciva dalla galera che continuava ad essere un rapinatore, puntava una banca, la colpiva e andava avanti con quella vita fino a quando non sarebbe rientrato poi in carcere. In quell'estate del 2017 questo pensiero si era estinto, ma non sapeva con che cosa l'avrebbe sostituito. E a quel punto io mi sono appassionato di questa vita così nuova, così inedita, da riconoscere, da sperimentare un minuto dopo l'altro. Per cui cioè, il lavoro che noi abbiamo fatto insieme è stato proprio quello di conoscerci, di riuscire a creare quel territorio di intimità e di fiducia reciproca perché lui potesse affidare il racconto della sua vita anche nelle parti più irraccontabili, più inenarrabili, a me e io avessi la disponibilità per accogliere questo racconto anche molto drammatico, anche molto nero. Cercando di azzerare o comunque di abbassare il più possibile i miei pregiudizi. Bene, la storia di Lorenzo, insomma, leggendo il libro emerge fin da subito come una storia profonda che affonda nelle radici della sua famiglia attraverso appunto un caso particolare, insomma, che lo riguarda fin dai primi giorni di vita. Ma vogliamo entrare un po' nel dettaglio e raccontare un po' qual è il percorso della storia carceraria, ma non solo carceraria, che insomma Lorenzo ha vissuto fin da appunto l'inizio della propria vita. E partiamo proprio dall'inizio, nel senso che Simone Lorenzo entra in carcere per la prima volta a 10 giorni di vita, perché il padre viene arrestato per rapina proprio nei giorni in cui la madre scopre di essere incinta. Dunque, vive tutta l'infanzia andando a trovare il padre in carcere, ai colloqui un giorno alla settimana, per un'ora alla settimana. che anche questo è abbastanza particolare perché significano 4 ore al mese, significano 72 ore in un anno, significa conoscere il padre per i primi 7-8 anni della sua vita per l'equivalente di 25-30 giorni, sommati in 7-8 anni. A 14 anni, nemmeno quindicenne, viene condannato per la prima volta al carcere minorile in seguito ad una rapina che fa con dei ragazzi maggiorenni, che lo coinvolgono tra l'altro perché è incensurato, perché è minorenne, perché può mostrare il volto entrando a dichiarare questa è una rapina, facendo l'apertura, la cosiddetta apertura della rapina. E viene arrestato e condannato ad 1 anno e 9 mesi e viene costretto a passare quest'anno e 9 mesi all'interno del carcere minorile perché proviene da una famiglia con precedenti penali. A 19 anni entra in carcere per la prima volta in un carcere da maggiorenne e sostanzialmente la sua vita si divide in pochissimi mesi di libertà, libertà da latitante, libertà da ricercato, a tantissimi anni di carcere, sostanzialmente dal 1990 al 2017. In 27 anni lui vive tra carcere da maggiorenne e carcere minorile, circa 23 anni in carcere e 3 anni, tra i 3 e i 4 anni in libertà in 27 anni. Libertà, come abbiamo detto, da latitante, da ricercato, insomma, non una libertà in cui puoi andare a mangiarti un gelato o andare al cinema come ti pare. Questa è la vicenda criminale. Di Lorenzo. Lorenzo è stato un rapinatore, aveva un unico disegno criminoso, quello della rapina. Tutti i suoi reati erano ascrivibili alla rapina, era il bandito vecchio stampo, un bandito che rispettava un codice etico criminale ben preciso e anche in carcere è stato un detenuto vecchio stampo. Lui mi ha raccontato che a 19 anni, quando entra per la prima volta nel carcere da maggiorenni, entra a San Vittore, a Milano, e viene messo lui 19enne in una cella dove il più giovane era una cella da 10 persone più lui 11, il più giovane aveva 50 anni. Ed erano tutti criminali calabresi, per cui lui cresce, si forma come detenuto, come carcerato, secondo i codici etici criminali calabresi. Il racconto che noi abbiamo fatto all'interno del libro è pieno di questi dettagli, di queste specifiche, molto peculiari della vita in carcere, della vita in carcere. Oggi probabilmente la vita in carcere è anche un po' diversa rispetto a quella che noi abbiamo raccontato, perché appunto la sua detenzione termina nel 2017, ormai sono passati 6 anni e mezzo. In tutti questi anni, appunto, alterna rapine, alterna la vita da bandito, alterna una vita anche affascinante, anche scintillante, la vita fatta di auto di lusso, fatta di night, fatta di champagne, fatta di negozi di alta moda in via Monte Napoleone. Lorenzo viene definito da un giornale a un certo punto come il bandito che veste Armani per la sua passione per gli abiti di Giorgio Armani. Una vita romantica. Da bandito che dice: a me non interessava, ad esempio, lo spaccio, perché lo spaccio presuppone la creazione di una società. Lo spaccio è una cosa molto complessa, equivale nel mondo criminale alla gestione di un'impresa. Devi avere le persone che ti importano le sostanze, devi avere le persone che te le raffinano, devi avere le persone che ne vanno nelle piazze di spaccio a diffonderla, devi avere dei commercialisti capaci di gestire gli incassi rispetto alle spese. Io non volevo nulla di tutto questo, dice lui. Io volevo semplicemente andare, chiudermi in una stanza con 3 amici che eravamo legati da un legame fraterno, con questi 3 amici decidere una banca, colpirla, prendere i soldi e spenderli nel più breve tempo possibile, in ricchezza, ostentazione della ricchezza, ostentazione del potere. Cioè, questa è stata la vita che Lorenzo ha fatto per tanti anni. È accaduto poi qualcosa all'interno dei suoi anni di detenzione, no? Questo poi emerge dal libro, che c'è poi un cambiamento di Lorenzo nei confronti della vita che ha svolto, insomma, in tutti questi anni e anche nei confronti per l'approccio, rispetto al carcere. Sì, ovviamente è accaduto qualcosa perché altrimenti a me questa storia non avrebbe interessato, devo essere sincero. Cioè, è una storia di criminalità fine a se stessa, non ho nessun fascino per questo genere di storie. È accaduto qualcosa, ma sono accadute due cose principalmente durante tutta la sua carriera carceraria. La prima, che è durata diciamo dal 1990 al 2013, è stata quella in cui Lorenzo è stato in, mi sembra, 27 carceri differenti in Italia, per cui tante carceri, ma in queste carceri ha trovato soltanto esperienze di una detenzione. Lui dice: io uscivo che ero più criminale di quando ero entrato. Dove lui dice: io ho fatto l'università, prima le superiori e poi l'università della rapina, del crimine, della criminalità all'interno del carcere, dove dal 90 al 2013 non ha avuto nessun incontro, nessuna possibilità di riabilitazione, di rieducazione, di trasformazione della sua di rinascita. Questa cosa è avvenuta per tutti quegli anni. A un certo punto, ancora criminale, senza dubbi, senza crepe, arriva al carcere di Padova, dove invece incontra le persone giuste, probabilmente anche al momento giusto della sua vita, questo è possibile. Lui ha 33 anni quando arriva nel 2013 al carcere di Padova e incontra prima di tutto un compagno di cella, che è un vecchio rapinatore più grande di lui, in cui probabilmente Lorenzo non solo si rispecchia, ma vede anche una figura un po' adulta di riferimento. Questo compagno di cella ha vissuto delle esperienze di carriera criminale, ma anche delle esperienze umane molto drammatiche comuni a quelle di Lorenzo. E fra di loro scatta una fiducia, un'intimità, un sentimento particolare, un sentimento raro fra detenuti. E questa persona lo convince ad entrare in questa redazione. E poi in questa redazione Lorenzo entra, riconosce di esserci entrato in maniera strumentale. Cioè, riconosce di esserci entrato semplicemente per ottenere un documento scritto da un educatore che scriva il per la persona tot, cioè ha frequentato questa cosa nella speranza che quel documento possa arrivare a un certo punto in mano ad un magistrato di sorveglianza, quindi a un tribunale, e quindi ottenere, ma da lì a qualche anno, magari un vago permesso. E invece in questa redazione avviene un cambiamento drastico. Attraverso, non perché vede la luce, avviene attraverso il confronto, attraverso, cioè, quello che avviene dentro la redazione di Ristretti Orizzonti e avviene tuttora, imporre ai detenuti un approccio critico con il proprio passato, attraverso un esercizio dialettico continuo, per essere più chiaro, per essere meno astratto. La direttrice Ornella Favaro propone un tema e il tema in cui Lorenzo entra per la prima volta propone il tema delle vittime e sente gli altri detenuti che dicono: eh sì, io ho delle vittime, io ho delle vittime. E Lorenzo sbotta perché da criminale dice: voi avrete delle vittime, voi siete degli infami a riconoscere le vostre responsabilità. Io non ho nessuna vittima, non ho nessuna vittima perché io rapinavo le banche, mica rapinavo in giro per le strade, mica truffavo, cioè io rubavo alle banche, le banche erano assicurate, non ho torto un capello a una persona. E Ornella Favero gli dice: sì, ma il cassiere a cui puntavi la pistola alla testa, forse anche a distanza di anni, può avere dei traumi tuttora per quel tuo comportamento. Quella è una tua vittima. Tuo figlio, che non lo hai visto crescere, è cresciuto con un padre in galera, quella è una tua vittima. E ovviamente un detenuto non vuole sentire queste cose, perché significa mettersi in contatto con una parte di sé che si fa di tutto per rimuovere, per cancellare, per spostare da un'altra parte, per non sentirla. E questo ha avuto un impatto trasformativo in Lorenzo. Eh sì, questo dal libro emerge particolarmente perché, ma a tutti gli effetti questo è un romanzo di formazione, no? Ha questa una formazione adulta per appunto tener fede un po' a se stesso, però in una modalità diversa rispetto a come ciò era stato fatto negli anni precedenti. Quindi, insomma, emerge anche una figura narrativamente molto forte, immagino. Poi magari è quella che maggiormente ti ha spinto, no, all'idea di poterlo raccontare. C'è però chiaramente Per chi si occupa di temi delicati come questo, anche un pericolo forte di, consentimi il termine, potenziale assorbimento all'interno di una storia. Ecco, come hai lavorato per cercare un po' di mantenere te stesso dentro e fuori un po' una storia di questo tipo? Allora, se tu parli di un pericolo di emulazione, io francamente sarà perché non sono particolarmente appassionato alle storie criminali, cioè trovo che questa sia una storia di luce, una storia di rinascita, dove la rinascita sia molto più forte ed essendoci una rinascita straordinaria, questo mi ha concesso da narratore di raccontare gli abissi, le tenebre, cioè il nero delle tenebre non è che lo devo grigiare, chiarire, rendere un po' più accettabile. No, lo voglio rendere tanto duro, tanto difficile, proprio perché la luce in fondo al tunnel è una luce vivida. E dunque io, francamente, ma ho fatto tantissimi incontri anche nelle scuole superiori spesso mi è capitato che mi hanno invitato perché hanno fatto un percorso con il libro. L'emulazione non è un pericolo che io sento che questa storia possa. Certo, c'è una parte criminale molto affascinante, ma il rovescio della medaglia, appunto, sono anni e anni di carcere, cioè si sta parlando di questo. Cioè, per una settimana, non lo so, di gloria ci sono poi magari 10 anni di carcere. No, io parlavo più del tenere in equilibrio il proprio Se tu, privato, la propria esatto. partecipazione. Esatto, se tu invece parli dell'assorbimento mio, del coinvolgimento mio personale, beh, io sono travolto da questa storia, lo sono tuttora travolto da questa storia, cioè è molto difficile per me cercare, anche a distanza ormai di 2 anni, da quando, cioè ora il libro è uscito l'anno scorso, però insomma sono 2 anni che questo materiale è in giro, è pubblicato ed è, diciamo, di dominio pubblico. Faccio ancora tuttora molta fatica a pensare di spostarmi e fare altro. Il rapporto tra me e Lorenzo è un rapporto fraterno, un rapporto fortissimo, indissolubile in questo momento. Però è anche un privilegio, insomma, riuscire a fare del proprio lavoro qualcosa di così coinvolgente, così appassionante. E quindi, francamente, cioè, cerco di gestirmela, ovviamente, perché. Cioè, però. Trovo che siano più i vantaggi che gli svantaggi Ah, di questo tipo. c'è un motivo per questa domanda, poi in fondo perché leggendo il libro e però raffrontandolo con il sottotitolo, no? La storia dei miei errori della mia rinascita, è curioso perché emerge quel doppio possessivo, miei errori, mia rinascita, per un libro in realtà co-firmato da due persone, no? Quindi uno si chiede, guardando il titolo, dice, ma miei di chi? Di quale dei due autori? Poi ovviamente aprendo ci si rende conto. Ma attenzione, perché poi in realtà quello che, il motivo di questa domanda era legato al fatto che mi sembra ci sia qualcosa che ti riguarda anche molto all'interno, no, come dici nell'introduzione, qualcosa legato anche alla tua famiglia, a tuo padre. C'è un rapporto con i padri molto particolare, dicevi prima anche con la figura maschile adulta di riferimento. Sì, assolutamente. La genesi di questo libro, nonostante io padroneggiassi la storia ormai meglio di Lorenzo stesso, ma la scrittura del libro è stata molto complessa, nonostante appunto padroneggiassi la storia così bene. Perché? Perché trovare la forma di questo libro è stata cioè, sono andato per tentativi. L'ho provato a scrivere in prima persona, l'ho provato a scrivere al presente, l'ho provato a scrivere in terza persona, l'ho provato a scrivere cercando delle analogie fra la sua biografia e la mia, cioè cercando i motivi per cui a me questa storia attraeva così tanto, per cui mi ci sono dedicato così tanto. A un certo punto, in tanti mi dicono: ma tu dove sei all'interno di questo libro? Io penso che non sia tanto corretta come domanda questa, nel senso che non è tanto tu dove sei, perché Secondo me, qualsiasi ricerca di analogia fra il suo vissuto e un vissuto più ordinario, ma per forza di cose più ordinario come quello mio, per quanto io possa raccontarti delle cose buffe, delle cose drammatiche, eccetera, ma il vissuto di Lorenzo ha un che di metaforico, ha un che di cristologico, cioè è qualcosa di più grande di un vissuto quale può essere il mio, e francamente trovavo estremamente sproporzionato e un atto di presunzione pensare di poter associare questo. Ragionandoci, ho pensato che sì, evidentemente noi abbiamo avuto dei punti di partenza in comune, io e Lorenzo, dei punti di partenza in parte delle nostre vite di partenza, perché anch'io provengo da una famiglia umile, tutto sommato, non ho, almeno non ho memoria di carcere, di persone detenute, di criminalità, eccetera, questo no, però sicuramente provengo da una realtà umile. Ma oltre a questo, proprio nel momento del nostro incontro, cioè da uomini adulti, ci siamo trovati entrambi, ci siamo riconosciuti forse per questo anche, ci siamo trovati entrambi in una posizione di trovarci di fronte ad un futuro che si prospettava diverso dal nostro passato. Per lui, perché usciva, come l'ho detto prima, per la prima volta sperimentava la libertà da uomo non criminale, e per me, perché non ero più figlio, banalmente, perché mio padre si era spento pochi giorni, poche settimane prima. Questa cosa qui ti mette in discussione, cioè chiunque abbia vissuto, cioè, questa esperienza, che è normale che a un certo punto della vita di una persona possa accadere, ti mette in contatto con qualcosa di diverso, ti destabilizza e, cioè, vedi il futuro in una maniera un po' diversa da come hai visto fino a quel punto, fino a quel momento il passato. Per quanto riguarda la mia presenza nel libro, secondo me, penso di aver avuto il merito di trovare, cioè di prendere questa storia che era un magma enorme, di essere riuscito a metterla, ad inanellarla un anello dopo l'altro in una forma accessibile. Ecco, certi passaggi io penso di averli semplicemente nel racconto di Lorenzo, di aver evidenziato, di aver illuminato, nemmeno evidenziato, di aver illuminato certi dettagli. Quando lui dice lì mi sono sentito riconosciuto come uomo, ecco, forse sono dei passaggi, cioè quando prima, ad esempio, quando prima dicevo fra Lorenzo e Maurizio, il suo concellino, nasce un'intimità, una fiducia. I motivi per cui nasce questa fiducia sono delle cose che ho dedotto io attraverso il suo racconto. In questo senso io ho cercato di illuminare tutte quelle cose che secondo me era necessario illuminare perché non fosse soltanto una bella cronaca. Io ringrazio Mauro Pescio con una domanda, che è una domanda di rito finale che chiediamo a tutti quanti i nostri ospiti, di consigliarci un libro a tema, libero, insomma, qualunque cosa ti va di condividere con i nostri ascoltatori. A tema libero. Allora, io in questo momento sto leggendo Paul Auster, Baumgartner, che è un libro, non leggevo Paul Auster da tanto tempo, è un libro sofisticato ma sicuramente molto appassionante. Invece una delle letture più belle che ho fatto negli ultimi tempi, vabbè, ne posso consigliare tre, visto che mi hai preso un po' di sprovvista. Apeirogon. L'autore si chiama McCann, mi sembra. Qualche analogia con la storia di Lorenzo, perché Lorenzo oggi è un mediatore penale esperto in giustizia riparativa, e questo libro parla di due padri, uno israeliano e uno palestinese. Entrambi hanno perso i figli, uno una figlia piccola di 7-8 anni e uno una figlia adolescente. È un libro che racconta l'incontro di queste persone, dal pregiudizio reciproco all'incontro di queste persone, e lo fa in una forma letteraria straordinaria. E un'altra grandissima lettura, la terza, e poi mi sto zitto, è invece, che ho letto proprio in queste vacanze, Sangue Giusto di Francesca Melandri, che è un libro del 2017. Francesca Melandri è un'autrice romana che attraverso una storia di finzione molto avvincente, impone al lettore di ripercorrere il passato coloniale italiano, che è un passato di tragedie, di violenze, di torture. Visto anche quello che è successo pochi giorni fa ad Acca Larenzia, penso che sia molto importante guardare in faccia storicamente alla nostra identità. Bene, grazie Mauro Pescio, grazie soprattutto per questa chiusura che ci fa molto molto piacere. E dunque io chiudo ricordando appunto Iorio il Milanese di Mauro Pescio e Lorenzo S, edito da Mondadori, 18,50 euro se non vado errato in libreria, ma attenzione perché Iorio il Milanese è anche un podcast in 14 episodi che ha vinto lo scorso anno la sezione documentari l'Italian Podcast Awards, quindi insomma parliamo di un interessante documento ed è anche uno spettacolo teatrale perché insomma si sta girando un po' l'Italia con questo lavoro. Quindi grazie Mauro Pescio e al prossimo libro. Grazie, grazie, grazie.